giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Agosto 1944. Sant'Anna di Starzema è un piccolo paese di montagna in provincia di Lucca, in Toscana. La storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola, cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Le bambine vestite di bianco, con i grembiuli puliti e i cappellini in testa, i bambini con la camicia, i pantaloni corti e le bretelle. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta. Poche righe, frasi di bambini che vivevano spensierati mentre intorno alla guerra dei grandi distruggeva e divideva il mondo. Il 12 agosto 1944 quei sogni di bambini vennero infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che aveva a che fare con la morte e la violenza dei grandi. I razzi illuminarono il cielo di rosso e a un certo punto apparvero i soldati nazisti dell'SS. Entrarono a Sant'Anna di Starzema, accompagnati da italiani fascisti, bruciarono le case, alla fine si contarono 560 morti. I responsabili di quel massacro erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti furono nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare. Un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuse a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo lavori nel palazzo e si accorsero della presenza di quell'armadio. Lo aprirono e venne fuori ciò che restava della nostra memoria, della memoria italiana. 695 fascicoli stipati uno sull'altro. Un registro composto da 2.273 voci annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso, ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti, c'erano i nomi dei colpevoli. Al numero uno, l'eccidio delle fosse Ardeatine a Roma, in testa Herbert Kappler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini. C'erano quelli che colpirono a Marzabotto, a Fivizzano e a Sant'Anna di Starzema. Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono dunque negli anni potuti istruire i processi. Quello al tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli, comminati ad ex ufficiali tedeschi e ritenuti responsabili dell'eccidio di Sant'Anna. E il giallo e nero oggi ricostruisce i passaggi più importanti di quel processo. Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero. Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano, la fisarmonica, cantavano. Il 12 agosto 1944 questi testimoni erano piccoli. Cioè erano coetanei di quei bambini ritratti in questa fotografia nel loro ultimo giro tondo. Da quel giorno, di molti anni fa, i loro ricordi restano lucidi, precisi e preziosi. Le immagini in bianco e nero diventano dunque a colori dentro le aule giudiziarie del Tribunale Militare di La Spezia. Ricordo solo il classico biondino tedesco. Appena abbiamo voltato le spalle a questo soldato, abbiamo sentito una raffica. Lui aveva il mitra, l'arma automatica, sparò una sventagliata di proiettili. Ci siamo girati di soprassalto perché noi non si vedeva dove sparava, pensavamo che ci stesse sparando addosso e invece girandoci abbiamo scorto che sparava in aria. Poi ispirano davanti alla corte di La Spezia gli uomini che hanno coordinato le indagini. Il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia e il procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis. La 16ª divisione, la Expira, secondo battaglione, 35° Reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sant'Anna. Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che proprio è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia. Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione. La requisitoria del procuratore militare di La Spezia De Paolis è dunque un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata ormai abitudine. La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia. I 10 condannati sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier della SS, il tenente Karl Gopler, 82 anni, e il luogotenente Georg Rauch, 84 anni, e il sottotenente Gerhard Sommer, 84 anni, e ancora i sergenti Alfred Schoenberg, 84 anni, Ludwig Erich Sontag, 81 anni, Alfred Concina, 86, Horst Richter, 84, Werner Bruce, 85, Erich Schendel, 83, e infine il caporale Ludwig Göring, 82 anni. L'unico reo confesso che ha ammesso di aver fucilato una 20ina di donne nella frazione Coletti, nei pressi di Sant'Anna di Stazzema. Gerhard Sommer, uno degli imputati condannati, era stato intervistato anni fa dal collega della televisione tedesca Udo Gümpel. Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione, vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero? Sì, è vero. E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero? Come fa lei a saperlo? Abbiamo guardato i documenti della Verma e naturalmente della SS. Ma è vero o no? Sì, è vero. A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema e la risposta fu agghiacciante. Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda. Elisabetta Fusconi ha intervistato Adolf Beckert, 83 anni, all'epoca della strage di Sant'Anna era caporale SS della 16ª divisione. Il suo racconto ci porta indietro di molti anni ed è la prova provata che ha inchiodato i vertici delle operazioni nella provincia di Lucca. Avevamo l'ordine di scovare i cosiddetti partigiani e portarli nella piazza della chiesa, perché Sant'Anna era zona di partigiani. Ma non ci fu detto esattamente cosa dovessimo fare. Dovevamo cercare uomini, ma noi due non ne trovavamo. Gli altri soldati sì, ma nessuno era giovane. Li radunarono nella piazza della chiesa. Erano solo bambini, donne e anziani. Io e il mio amico aspettammo in piazza finché tutti non furono radunati. Arrivò un ufficiale che io non conoscevo. Und dann kam ein Offizier, den ich nicht kannte. di Varo Bassa e von der 16. Divisione. Era probabilmente della 16. Divisione. Ma non lo avevo mai visto prima. Le persone che erano con lui avevano delle mitragliatrici. Questo ufficiale si avvicinò a me. Accanto a lui c'era un altro soldato delle SS con un ricetrasmettitore. Un SS-Soldat mit einem Funkgerät. Und die beiden, der Soldat mit dem Funkgerät und der Offizier. Si misero a parlare tra loro. Il soldato riferiva all'ufficiale cosa gli era stato detto via radio. Ma gran parte delle cose che si dicevano non le capì. Aber das meiste hab ich nicht verstanden. Wir standen an der Kirche. Eravamo appoggiati al muretto che circondava la chiesa. A un certo punto dovetti andare in bagno. Girai intorno alla chiesa, vicino alla torre, e lì trovai due giovani che giacevano morti. Non so chi gli avesse sparato. Poi tornai al muretto. C'erano sempre più persone che erano state trascinate in piazza e c'era anche un prete. Il prete fu invitato più volte dall'ufficiale ad avvicinarsi. Gebeten, ja, zu ihm zu kommen. L'ufficiale gli diede un ultimatum. Ein ultimatum gesetzt. Wenn bis ich weiß jetzt nicht mehr in 10 oder 15 Se in 10-15 minuti la gente non avesse detto dove erano gli uomini, sarebbero stati uccisi. Werden sie erschossen. Dann il prete andò dalla sua gente e parlò in italiano. Und hab gesprochen. Lo vidi parlare con le persone che si inginocchiarono davanti a lui. Es war kein Laut zu hören, kein Weinen, gar nichts. C'era un silenzio assoluto. Nessuno gridava, ma neppure piangeva. Solo preghiere per quello che ho potuto sentire. Scaduto l'ultimatum, dopo 10 minuti sentii un rumore assordante di mitragliatrice dal lato della montagna. Non vidi chi sparava perché dall'angolo della chiesa dove mi trovavo non potevo vedere i soldati, ma vidi come furono uccise le persone. Il più giovane degli imputati ha 81 anni. Nessuno di loro finirà mai in carcere. Ma i loro nomi la giustizia italiana li conosceva dal primo dopoguerra. Secondo voi, la politica si prenderà mai la responsabilità per l'occultamento di prove e in un procedimento per strage?